più, se la bellezza perde vaghezza, se cade amore non torna più. E un sol momento ride contento il vago fiore di gioventù, il vago fiore di gioventù, e un sol momento ride contento il vago fiore di gioventù, il vago fiore di gioventù, di gioventù. Se cade amore non torna più. Non torna più.